America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Our enemy is not terrorism because terrorism is but a tactic. Our enemy is not terror because terror is a state of mind. And as Americans, we refuse to live in fear. John Brennan, consigliere antiterrorista del presidente americano Barack Obama, candidato alla guida della CIA. Bene, il Washington Post ci dà notizia che forse Brennan potrebbe avere qualche difficoltà ad avere la conferma dal Senato per la questione dei droni. La questione dei droni torna alla ribalta. Gli sono state chieste delle informazioni, gli sono state chieste delle rivelazioni sulle procedure. John Brennan rifiuta di dare dettagli, dichiarando che le operazioni dei droni sono top secret e non possono essere messe a rischio perché sono troppo importanti per la sicurezza degli Stati Uniti. Attorno a questa vicenda, è intervenuto anche il New York Times, perché c'è una base di droni, sempre rivela il quotidiano americano, in Arabia Saudita. Da questa base un drone che ha ucciso Anwar al-Awlaki, che era uno dei più grossi ricercati militanti di Al-Qaeda da parte degli Stati Uniti, ma che era un cittadino americano. E dunque c'è polemica al Senato, perché è giusto e lecito che il governo americano possa uccidere dei suoi cittadini? Ecco, questo è uno degli elementi della polemica, ce ne sono altri, perché nel corso di alcuni di questi attacchi sono anche state uccise delle persone innocenti, per esempio il figlio sedicenne di al-Awlaki, che era tra l'altro anche lui cittadino degli Stati Uniti. Passiamo alla Tunisia. Grande sensazione per l'uccisione di Chokri Belaid, che era il leader dell'opposizione. L'America, Washington, ha condannato questa uccisione. La Tunisia, da cui è partita la primavera araba, torna in fermento, proteste per strada, agitazioni, situazione di tensione. Ecco dunque un altro elemento di agitazione nel grande calderone medio orientale nordafricano. Ahmadinejad, il presidente iraniano, è andato un paio di giorni fa al Cairo, ha visto il presidente egiziano Morsi. È la prima visita di un leader islamico, del fondamentalismo islamico di Teheran, al Cairo. Ecco, è una svolta. Possibile che ci sia un'alleanza in arrivo? Forse no. Ci sono state tra l'altro delle prese di posizione da parte di imam sunniti che hanno chiarito che Ahmadinejad è sciita e che dunque che non si permetta di mettere il naso in questioni religiose egiziane. Ricordiamolo, gli egiziani sono soprattutto sunniti, però l'incontro è stato un incontro importante, perché chiaramente rappresenta qualche cosa di nuovo in questo scenario medio orientale, arabo, nordafricano in evoluzione. Infine, sentiamo cosa ha avuto da dire Jay Carney, il portavoce di Barack Obama, sul viaggio del presidente in Israele. We have obviously, as we've discussed, high level cooperation between the Israeli military and the US military. Jay Carney, devo dire, è stato curioso, perché ha detto che il presidente sì parlerà di possibili ipotesi di pace fra israeliani e palestinesi, però il focus principale del suo viaggio, cioè non è questo l'obiettivo della visita di ravvivare il processo di pace, piuttosto ci si dovrà concentrare sulle minacce nucleari in arrivo dall'Iran e sulla guerra civile che sta mettendo in ginocchio la Siria. Sappiamo che Israele negli ultimi 10 giorni ha fatto un paio di attacchi armati in territorio siriano contro convogli che, secondo gli analisti, sono dei convogli in arrivo dalla Siria con dei carichi di armi. Ecco dunque un calderone esplosivo dalla Tunisia alla Siria. Un presidente americano, Barack Obama, che presumibilmente cercherà di dedicare questo suo secondo mandato a mediare fra israeliani e palestinesi e a vedere se riuscirà davvero a dare un'impronta storica a questa sua presidenza, riuscendo a ravvivare questo dialogo per la pace e chissà, magari a trovare una qualche soluzione o comunque un passo in avanti importante, tipo quello che fece Jimmy Carter ormai molti, molti anni fa. E dunque, come ai microfoni di America 24 per parlare di questa situazione in evoluzione, Maurizio Molinari, corrispondente della Stampa. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Maria. Abbiamo un piatto ricco, come si dice, dalla Tunisia alla Siria, il viaggio di Obama, Ahmadinejad che va al Cairo. Insomma, tu vedi un filo conduttore, un filo comune in tutte queste in tutti questi sviluppi di questa di questi ultimi giorni? Sì, secondo me il filo conduttore di questi fatti e anche delle decisioni dell'amministrazione Obama è la questione iraniana. Il dato più importante è che l'Iran entro la fine del 2013 marcherà la soglia della militarizzazione del suo programma nucleare. Ecco, scusa Maurizio, tra l'altro abbiamo visto ieri la notizia secondo cui l'Iran ha praticamente ormai queste macchine, 3.000 nuove centrifughe della nuova generazione per l'arricchimento dell'uranio, e anche quello preoccupa molto. Sì, il filo conduttore è l'accelerazione del programma iraniano. L'amministrazione Obama in queste settimane sta giocando la carta del dialogo con l'Iran. Entro la fine di febbraio si incontreranno in Kazakistan i rappresentanti dei 5 paesi permanenti del Consiglio di sicurezza più la Germania con l'Iran per riprendere le trattative multilaterali. Il vicepresidente Joe Biden a Monaco si è detto favorevole a un dialogo bilaterale con Teheran. E l'arrivo di Ahmadinejad al Cairo consente all'alleato egiziano degli Stati Uniti di tentare di spingere l'Iran verso il dialogo bilaterale con gli Stati Uniti. Ecco Maurizio, scusa ti interrompo, perché io ho visto più volte questo tentativo di allacciare un dialogo bilaterale con l'Iran, multilaterale, è stata la missione europea, la proposta europea che sembrava ormai parecchi anni fa. Ci fu l'incontro a Ginevra dove sembrava che il dialogo bilaterale dovesse ripartire, mi ricordo che andai proprio a quel vertice, ecco, non è mai successo niente, nel senso che l'Iran ha sempre usato queste occasioni per tirarla in lungo, per andare avanti, poi quando si arriva al dunque non consegna, it doesn't deliver. Ecco, pensi di essere più ottimista oggi o sei forse pessimista? Io sono un po' pessimista, devo dire. No, diciamo, ci sono due elementi nuovi. Il primo è che ci sono le elezioni iraniane a giugno, quindi ci sarà un cambio di governo. Ahmadinejad uscirà di scena e Ali Khamenei, il leader supremo della rivoluzione iraniana, di fatto nominerà il nuovo presidente. E quindi il nuovo presidente potrebbe avere interesse di iniziare in maniera diversa il dialogo con il resto del mondo. Il secondo elemento è quello militare. E qui si lega il viaggio di Obama a Gerusalemme. È chiaro che se nei prossimi 60 giorni non ci dovesse essere una importante svolta diplomatica sul nucleare, e questo dipende da Khamenei più da Ahmadinejad che appunto sta lasciando il posto, il summit con Netanyahu a Gerusalemme potrebbe diventare un summit di guerra sul tema dell'intervento militare in Iran. Noi sappiamo che gli Stati Uniti non hanno intenzione di fare questo intervento. Però se dovesse essere Israele a farlo, e Netanyahu, c'eri anche tu con me al Palazzo di Vetro quando a settembre ha detto chiaramente che quest'anno è la linea rossa, se Netanyahu dovesse decidere di farlo entro la fine dell'anno avrebbe bisogno dell'avallo americano. Insomma, io credo che siamo a un momento di svolta della questione nucleare. O andiamo verso una composizione negoziale fra Ali Khamenei, quindi non Ahmadinejad, della comunità internazionale, oppure ci sarà un'accelerazione verso la soluzione militare con Israele che se ne farà carico. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, c'è stata una riunione interessante ieri, alcune star della musica leggera si sono riunite per incontrare alcune delle vittime delle sparatorie folli che capitano ogni tanto negli Stati Uniti e per cercare di ragionare sulla necessità di introdurre dei controlli sulle vendite di armi. Fra loro c'era Tony Bennett, leggendario, il cantante italo-americano, ultimo grande erede di Frank Sinatra, e dunque di Tony Bennett in duetto con Amy Winehouse, così nella speranza che ci siano davvero questi controlli sugli armamenti, che Barack Obama possa riuscire a fare qualche cosa. Body and Soul. If you turn away romance, oh, are you pretending and love? One more chance for birthday. My life a wreck you're making. You know I'm yours. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.